cemento, una casetta vecchia con le crepe, con gli angoli finiti di ragni e tele, e i ranghi che danzano sul muro, fila, si sentono al sicuro, a volte parlano di muri, si lascia trascinare dalla danza, altro che cielo in una stanza, perciò festa ben contento, una casetta vecchia con le crepe, due muri ancora su solo per pelle, ti basta ballare le distanze, seguendo una musica sostante, ricca di ritmi spezzati, e movimenti scordinati, che scatenano la danza, quando esplodere la festa. Basta ballare nelle stanze, seguendo una musica sostante, ricca di ritmi spezzati, movimenti sordinati, che scatenano la danza, verso festa del contento, una sistemazione che precaria, che nella mia vita ci si anna, che nella mia vita ci si festa, il cuore che batte la tristezza, rido di un passo ardito, si vede il ballo di San Vito, e nonostante manchi la casa, la festa è cominciata. Genitore, è l'Italia amore, è la casa del genitore.